Oggi facciamo gli auguri all'americano più forte per singola stagione del nostro campionato italiano. Sì, perché ieri ha spento 65 candeline. JBC, Gio Americano. Buongiorno a tutti. Grazie per quest'ultima palla 2. Nuovamente buongiorno amiche, amici sportivi e non sportivi, ultima puntata 2022-2023 del Move to Groove. Ci tenevo tanto, sai Paolo, io e Paolo non abbiamo modo di sentirci in settimana. Il Breakfast Club ogni giorno ha una rubrica diversa, quindi gli impegni di scrittura per ogni format è molto impegnativa, e ovviamente per il Move to Groove ci affidiamo alla nostra passione nonché conoscenza cestistica. Ne approfitto per ringraziarti Paolo per la bellissima stagione. Ovviamente ci risentiremo dal primo settembre. La voce che va a corredare a volte anche in diretta i nostri contenuti, Paolo Onofri al Mood Groove, l'assistant coach, possiamo così definirlo per il format che abbina filosofia e perché, ascoltatore in precedenza della rubrica stessa, appassionato enciclopedico della pallacanestro, ha avuto modo attraverso diversi messaggi di esprimere la competenza per quanto riguarda la realtà cestistica di tutti i tempi, quindi a lui spesso mi affido per il contemporaneo, ma nonostante la giovane età, anche per quanto riguarda quella che io, perdonate, definisco vera pallacanestro, certamente non lascia desiderare, anzi tutt'altro, aggiunge contenuti importanti. Allora mi unisco anch'io agli auguri al grandissimo, secondo me, Joe Barry Carroll, l'americano che per stagione ha portato un contributo più concreto nel campionato italiano per l'Olimpia a Milano. L'arrivo di Joe Barry Carroll chiuso il campionato, ha vinto tutto quello che c'era da vincere, un centro che neanche io ho capito bene come è arrivato a Milano, perché era nel pieno della sua carriera, già tra i centri più forti offensivamente, tra i più forti in assoluto anche nell'epoca del grande basket, cioè dagli anni 80 agli anni 90, l'epoca presa in esame per il nostro format. Unica critica, un po' di determinazione in più l'avrebbe veramente portato sull'empireo dei grandi centri della pallacanestro. Ciò non toglie che, giocatore dai fondamentali specchiati, un piacere, una bellezza vederlo giocare, mano morbidissima, movimenti da insegnare nelle scuole, capacità offensiva invidiabile sia in avvicinamento a canestro che con tutto quello che è il gioco, come insegna la scuola, spalle a canestro per il gioco da pivot nella esecuzione che può essere tecnicamente, anzi lo è, specchiata. Joe Barry Carroll, ricordo che ha una grande passione. Joe Barry Carroll è un pittore, grande passione per l'arte, tra l'altro ha fatto anche esposizioni. Probabilmente è stato molto rapito da questa espressione figurativa che a volte l'ha un pochettino distratto. Non esattamente un grande difensore, ma indubbiamente uno dei centri più forti che si siano visti, e non solo in Italia. Tanta musica è quest'oggi, poi andremo anche in approfondimento per i saluti e per i progetti futuri del Breakfast Club Multo Groove. I got the, lui è l'Abby Schiffer, e tra poco nuovamente in diretta. Intanto grazie Paolo, e ricordo il 333-180-9494. Arrivare ci fu un alterco con gli allora Golden State Warriors sul suo contratto. Lui voleva un contratto attorno al $1 milione, non ci fu l'accordo, allora Perry Pick decise di venire a giocare per $300,000 nel nostro campionato italiano, in quel di Milano. Immaginavo che fosse una questione di contratto, chiaramente, ma dati così precisi non erano nelle mie informazioni. Grazie per averle portate, Paolo. Jobert Carroll ha aperto a metà anni 80 il tramite tra la rivoluzione e la normalizzazione cestistica. Ricordo, normalizzazione non è una brutta parola, nella politica, nella società, l'epoca di normalizzazione è la piena forza del potere, anche se il momento di forza maggiore è quello della rivoluzione. L'esempio che porto sempre è il caso di Spartaco. Il momento più forte dello schiavo ribelle è quando spezza le catene, non quando ormai è libero. Certo, rimane una grandissima forza, ma già è libero e può dominare. Il momento di massima potenza è il momento in cui sta rompendo le catene, in cui sta facendo la rivoluzione. Nasce 13 anni fa il Mood Groove da un'idea, guardando il mobilone dei CD e guardando quanti dischi di Rare Groove, di Funky Soul, anche di Meteor, che sono passate lasciando un segno di grande qualità, e ho pensato quante realtà cestistiche di giocatori, ne cito qualcuno così a vol d'uccello, non so, Eddie Johnson dai Phoenix Suns, un giocatore fortissimo, chi se lo ricorda? Potrei andare avanti, perché veramente Cedric Maxwell, Cornbread, un giocatore tecnicamente preciso, un piacere, un ala forte, campione con i Boston Celtics, e tanti altri atleti che hanno fatto questa rivoluzione, che ha coinvolto anche l'Italia, ha coinvolto il mondo, grazie a figure dirigenziali anche come David Stern, un commissioner della NBA che ha esportato il progetto e il prodotto NBA. Molti di questi protagonisti in epoca di normalizzazione, e non solo, anche giocatori più incisivi arriveranno in Italia. Arriva in Italia Alex English, arriva in Italia George Gervin, lo stesso Jobert Carroll, arriva in Italia Darryl Dawkins, arriva in Italia Artis Gilmore, il centro più forte della Lega Sorella ABA. Con Come tra gli anni 60 e gli anni 70 il funk, il soul e il jazz hanno avuto un'espressione musicale di un livello altissimo. Allora, abbinare queste sonorità, ogni atleta, ogni protagonista di questa rivoluzione è stato un po' il filo conduttore del Mood Groove. Ovviamente dalla mezz'oretta iniziale poi è passato a una durata più estesa con la nascita del Breakfast Club. Il percorso è andato avanti in questo modo fino all'introduzione di ospiti, analisi, filosofia, relazione con la quotidianità, con la società, con i cambiamenti che stiamo vivendo in rapporto ai cambiamenti che ci sono stati nel mondo dello sport. E beh, questa è Ima Sumac, eh? Lei è il Malambo numero uno, e se leggete al contrario il suo nome troverete il suo nome di battesimo, Amica Mus. Lei ha invertito la dizione di questo nome ed è stata una delle più grandi interpreti dell'exotica music. Eccola qui con il Malambo numero uno, una voce straordinaria. What they doing now? The city for some pretty thing. What they doing now? The city for some pretty thing. What they doing now? The city for some pretty thing. What they doing now? The city for some pretty thing. Ando solito te quiero, solito lindo besame si. En tus brazos me quiero morir, solito lindo besame si. What they doing now? Dall'Italia negli anni 80 vai tranquillamente a un tiro da una finale NBA, secondo me. Pienamente d'accordo. Poi non ho citato Bob McAdoo perché sono veramente tanti. L'altra volta abbiamo fatto l'in bocca al lupo di pronta ripresa a Larry Bright, Sugar Ray Richardson, Reggie Theus. Ecco, questi protagonisti dell'epoca di rivoluzione. Perché di rivoluzione? Perché il livello atletico con livello tecnico, se paragoniamo due grafici a confronto, due grafici sinusoidali, ecco, queste due caratteristiche vanno a intersecarsi fra di loro nel punto più alto. Successivamente ci sarà un punto molto più alto dal punto di vista atletico e inferiore dal punto di vista tecnico. Non che una volta non ci fossero i grandi atleti, semplicemente sono cambiate le caratteristiche d'allenamento. la preparazione atletica e soprattutto le metodologie di insegnamento della tecnica cestistica. Questo ha portato a un abbassarsi di quello che è la tecnica cestistica per quello che deve essere, esaltandone le caratteristiche unicamente fisiche. Questo fu il primo passaggio dalla normalizzazione. Il seguito della normalizzazione è la decadenza, e da lì, secondo me, l'inizio di una decadenza, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista della spettacolarità, che diventerà una spettacolarizzazione. Tante voci sono passate dal Moved Groove, ovvio non sto portando un epitaffio al Moved Groove, è semplicemente un saluto. Poi il prossimo anno, la prossima stagione, da settembre magari ci sarà motivo di consulto con voi, può già esserci al 333-180-9494. Mi hanno detto e portato anche iniziativa per continuare la rubrica e le ricerche tra sport, filosofia e società, sport nella specificità della pallacanestro, in quanto tanti giovani sono all'ascolto del Moved Groove, e quindi ovviamente li ringrazio per l'attenzione, perché è una pallacanestro che, io mi permetto di dire, era ed è un altro sport. Atletico era racchiuso nella giocata tecnica. Faccio un esempio: la Rock the Baby di Julius Erving o il suo layup rovesciato davanti a Kareem Abdul-Jabbar, per me ancora tutt'oggi sono i due gesti atletici più belli del basket mondiale. Sì, l'aspetto dello spettacolo aveva una finalità ed era all'interno di un contesto di risultato concreto. Poi ci sarà una spettacolarità fine a se stessa. Arriveremo poi con la decadenza totale anche al bypassare le regole della pallacanestro, un festival delle schiacciate dove è consentito di tutto, ovviamente, pur di portare questa esaltazione del gesto atletico. Ho un atleta che mi pare sia LeBron James, che con 9 passi con la palla in mano prima di andarla a depositare a canestro, direttore di gara che non interviene e concede questi 2 punti all'atleta colpevole di questa palese infrazione. Ecco, quindi tutti questi aspetti messi assieme, la mancanza di tecnica, l'esaltazione della fisicità, e non finisce qui, è una sorta di mancanza di rispetto per quella che è poi la crescita cestistica, ha portato un disinteresse, ha portato una mancanza di pubblico anche per quella che è un NBA che è diventata un appiattimento generale per diversi motivi. Non solamente per questo, la società, i cambiamenti all'interno della società stessa, ed è stato motivo di analisi l'informatizzazione, la digitalizzazione, i giovani che sono più distanti dal playground, anche il playground è stato protagonista nel nostro Moved Groove, insomma diversi aspetti. E 2 messaggi che mi sono arrivati, che vi leggerò dopo la pubblicità, uno di incoraggiamento, l'altro invece che giustamente anche con la critica si porta poi a conclusione alcuni motivi di riflessione, che mi hanno fatto pensare su quello che potrebbe essere il percorso e il progetto futuro del Moved Groove stesso. Intanto, con Woman of the Ghetto e la voce di Marlena Shaw, andiamo in pubblicità, poi rientriamo tra pochissimo per la seconda parte. Imprevedibile martedì di Radio Città Fujiko al Breakfast Club con il Moved Groove. A tra poco. Would you do it for him one time? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. They appreciate you, Harold Jones. And playing bass, Lord. You know that he's a sinner. I saw his stash, oh Lord, Lord, Lord, Lord, would you please put a blessing on Brother Ed Boyer? He appreciates you too. Hit that note again. Let me see if that's still right. And oh Lord, from the ghetto, from a $100,000 house tag ghetto. Lord, you don't need to bless him no more. Please get together for Mr. George Gaffney. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang. I was born, raised in a ghetto. I was born and raised in a ghetto. I'm a woman of the ghetto. Won't you listen, won't you listen, won't you listen to me there just later? How do you raise your kids in a ghetto? How do you raise your kids in a ghetto? Do you feed one child and starve another? Won't you tell me, legislator? I'm strong, true. I know that my eyes ain't blue, but you see, I'm a woman of the ghetto. How does your heart feel late at night? How does your heart feel late at night? Does it beat with shame? And does it beat with pride? Oh, won't you tell me, legislator? You know, sometimes we're not prepared for adversity. When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it when it comes up. Sometimes we don't know just what to do when adversity takes over. And I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zawinul, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called mercy, mercy, mercy. piano Fender, Joe Zawinul, che è l'autore di questo brano, di questo bellissimo brano che è Mercy, Mercy, Mercy, e al contralto palla di cannone, Cannonball Adderley. Come il Move to Groove dei primi tempi, Cannonball Adderley e Charles Barkley e Sir Charles, velocità, potenza, nonostante la fisicità leggermente corpulenta, ecco, se vogliamo, con una tecnica incredibile, con una capacità anche accattivante di riuscire a essere una power forward dominante, ma con le movenze anche di un giocatore esterno. Per il periodo di normalizzazione, per me uno dei giocatori più forti in assoluto. Quale sarà lo spartiacque? È l'epoca Michael Jordan. Da Michael Jordan in avanti il giocatore più forte di tutti i tempi, da Michael Jordan in avanti è Michael Jordan. Prima, beh, non lo sto a ripetere, tanto lo sapete, The Legend Larry Bird. E io ringrazio, oltre chi ha scritto, dicevo, di due messaggi, infatti sono poi arrivati, non erano questi, ma hanno uguale, se non importanza considerevole, il buongiorno di Lino, una parte critica del Move to Groove, e tra un po' farò, diciamo, un motivo di conversazione, darò un motivo di conversazione che coinvolge un pochettino chi sta ascoltando il format del martedì, e ringrazio anche chi sta apprezzando la musica, l'amico Enrico, ma grazie, con sto pezzo ci voleva, che tiro, buongiorno William, con il furgone vicino e la radio accesa il lavoro è più snello, grazie Enrico, grazie Enrico, apprezza molto la musica del Multi Groove. Lino è la parte un po' critica, se vogliamo, ma ci vuole, anzi tante sono state le voci presenti, oltre che i protagonisti che sono arrivati, da Nino Pellacani, Alberto Balestra, Charlie Recalcati, Giacomo Zatti, Andrea Cessel, Toio Ferracini, atleti presenti in un dream team del Move to Groove, per dare un contributo veramente molto forte. Grandi campioni, Dan Gay. Uno su tutti, che è stata una puntata doppia, è bel Dan Peterson, che molte volte, giustamente, anche noi abbiamo criticato, ma che ha avuto un motivo di conversazione all'interno del Move to Groove veramente illuminante. Ad esempio, io Dan Peterson, ma non avevo dubbi, non la pensiamo allo stesso modo per Dan Peterson. Michael Jordan è ancora nella parte di rivoluzione cestistica, per me invece dall'altra parte del fiume, è nella parte chiamata normalizzazione, ecco. Ma sono, beh no, non sono sfumature, sono cose importanti, però ne abbiamo parlato, continueremo semmai a parlare. Un messaggio che ha portato coraggio è arrivato ieri, pensate, nei magazine di Luigi. Buongiorno William, ribadisco il buongiorno a Luigi. Venerdì ho letto l'intervista a Coach Bianchini, per me è il più grande allenatore italiano di tutti i tempi. Ha espresso gli stessi tuoi pensieri sul basket, pareva intervistassero te. Beh, questo è un grandissimo complimento, e la voglia anche di andare avanti, la voglia anche di procedere con questa linea editoriale. E poi c'è stato un messaggio altrettanto importante di Enrico Enrico e Rio Forte, co-conduttore. Tra l'altro ringrazio Enrico per il grande contributo che ha portato al Breakfast Club. Con ironia, in un commento ha scritto: beh, del resto nella pallacanestro tu hai un buco di 33 anni. È vero, questo mi ha portato ad avere un attimo di riflessione e dire punto di domanda. Allora, il Mood Groove con questo buco di 33 anni, come lo possiamo colmare? Non ha detto delle castronate, il guaio è che lui si è rapportato ai suoi tempi, ha criticato dei giocatori di adesso, ma purtroppo la pallacanestro è cambiata. Poi lui ha avuto anche Larry Wright, quindi aveva la bocca buona, diciamo, a livello di playmaker. Beh, correggimi se mi sbaglio, lui ha avuto la squadra italiana più grande, a mio modo di vedere, la pallacanestro di tutti i tempi. Non è stato lui a Pesaro con Darren Day e Darwin Cook, una squadra, per quanto riguarda il campionato italiano, dal mio modo di vedere le cose, una coppia di stranieri. Ecco, loro certamente nel mio dream team, ma in questo caso la chimica di squadra, e questo è merito anche di un grande coach, è stata fondamentale. Ringrazio e saluto Paolo Zanardi, che ha sempre ovviamente ingresso libero per il nostro format del martedì, e ha portato lui Dan Peterson, tra l'altro con grande impegno in periodo di lockdown. Lui ha lavorato in maniera carica di passione, anche Enrico e Rio Forte. Cioè, a Bologna c'è una passione cestistica che, nonostante insomma abbiamo una visione un po' strana di questa Basket City, poi non mi pare stia vivendo dei momenti particolarmente brillanti per quanto riguarda la sponda Fortitudo, dove c'è e rimane come sempre una passione incredibile, ma le difficoltà sono quanto mai palesi. Insomma, la Bologna Latte Sole Yoga e Sinudine Granarolo Felsinea era, diciamo, un aspetto un pochettino diverso, sia per i contenuti che per i risultati, e poi in seguito anche con l'esplosione Fortitudo, l'arrivo di Seragnoli, l'arrivo anche negli anni poi di alcuni titoli importanti per la F Scudata. Ecco, tutto questo noi lo vogliamo tenere presente, darne una colonna sonora, capire come sono cambiati i tempi, tutto ciò in rapporto anche alla società, perché no, anche alla politica, e non dimenticare quello che è stato un livello che secondo me non arriverà mai più. Io mi hanno detto non dirle queste cose, però la mia onestà intellettuale mi impedisce di tacerle. Cioè, io ho un giocatore come Tim Duncan, che mi hanno detto è un fenomeno, io non l'ho mai visto giocare. Sullo stesso Jokic, io ho delle riserve, pur considerandolo un giocatore fenomenale, capisco, ci mancherebbe, quando uno ha un'esperienza cestistica pluridecennale certe sensazioni le ha, però io alcune riserve continuo ad averle. Allenatore, secondo me, però diciamo che il talento da allenare non gli è mai mancato. Una volta nella piazza di Bologna c'era molto più gioco e meno burocrazia, adesso si è un po' ribaltata la situazione. In virtù di tutte queste riflessioni, allora capisco che di solito il quiz lo mandavo in momenti ben prima della conclusione, però che sia un motivo di riflessione e motivo anche di dialogo, oltre che di contatto per il periodo di riposo del mese di agosto. Qual è il Move to Groove che volete? Ascoltatrici e ascoltatori, appassionate e appassionati di pallacanestro, ma non solo, perché non voglio fossilizzarmi, è la rubrica più specifica. Molti, oh, grande musica, bello, i libri, gli approfondimenti sull'arte, una presenza sul teatro, la particolarità dei magazine. Ecco, l'unica cosa, io di pallacanestro non sono un grande esperto. Allora, mi rivolgo a tutte e a tutti. Qual è il Move to Groove che volete? Qual è il Move to Groove di percorso come progetto futuro per quanto riguarda la stagione che è imminente, 2023-2024? Sia sulla paginetta Facebook che al 333-180-9494 o anche personalmente potete appunto dichiarare senza timore di critica. Pensate, Paolo Enrico Erioforte ha detto: beh, del resto nella pallacanestro, certo, tu ne parli, ma hai un buco di 33 anni. È vero, è vero. Quindi quale può essere il Move to Groove della prossima stagione? Ovvio che ci penserò. Magari pensateci un pochettino anche voi, così. Io e Paolo ci pensiamo, anche se non siamo costantemente in contatto, però ci piacerebbe, come ho detto, avere motivo di dialogo anche con voi, anzi, soprattutto. delle relazioni tra la società, la filosofia e i cambiamenti, come sono stati i cambiamenti nella pallacanestro. Volete ospiti e voci per quello che è stata la grande pallacanestro, quella che è protagonista al Mood Groove, oppure degli starting five abbinati alle sonorità abbinate, come ho fatto in precedenza, ho dato un'idea, no, con Cannonball Adderley e Charles Barkley. Qual è il Mood Groove della stagione 2023-2024? Questo raccontandone un po' la storia e i concetti, quello che ho nelle idee della prossima stagione che vorrei condividere con voi. Leggevo dei post in America che parlavano che avrebbe già superato Ewing nella graduatoria degli Hall of Famer. Però a me mi sembra pensare, Ewing nella sua era ha incontrato nel suo ruolo i più grandi Hall of Famer di tutti i tempi. Jokic non c'ha nessuno, no? Nel suo ruolo, no. da incrociarsi e fare una battaglia, diciamo. Quindi ragazzi, sono cose che secondo me sono fondamentali. Bisogna vedere anche chi erano i tuoi rivali, oltre alle altre cose. E l'ultimo brano in playlist, Harlem River Drive di Bobby Humphries. Puntata di congedo per un mesetto, si ritornerà. Dio, io ricordo avevo nausea e non solo, problemi, perdonate, gravi di stitichezza, perché la preparazione atletica di inizio stagione, e vi assicuro che la preparazione atletica di una Serie A è mamma mia. Perché questa problematica, e scusate il dettaglio, perché con gli addominali non riuscivi a spingere, cioè... Dopo questo bellissimo dettaglio che ho dato, io sono arrivato alla conclusione della stagione del Move to Groove. Ringrazio chi è confermatissimo, anzi ci mancherebbe, alla co-conduzione che è Paolo Onofri. Aspetto i vostri contributi, anche se il motivo di conversazione l'ho dato al termine, però appunto per avere più spazio nel periodo di stop per i suggerimenti al Breakfast Club. Mi aspetto tanto da Lino, che è l'atleta, diciamo, più contemporaneo, più vicino alla pallacanestro contemporanea. Poi non sto a fare il solito motivo così di diatriba, ma quelli di adesso prenderebbero 20 punti, ma quelli da adesso darebbero 20 punti ai protagonisti che stai elencando tu. Io questi paragoni impossibili, cercherei di restare più sul concreto. Arriviamo alla conclusione con il brano di Bobby Humphries. L'appuntamento è a domani con l'ultima puntata del Voltiamo Pagina, libri a colazione, e per voi ho già qui vicino a me il testo, la pubblicazione per Neri Pozza di un grandissimo scrittore, e ne approfitto per fare uno speciale su di lui, perché per me tra gli autori viventi lui è un tutti i tempi. È il Voltiamo Pagina, e quindi tra poco avremo lo spazio di Liberi Dentro, a seguire sarò in rassegna stampa, e io vi ringrazio per l'attenzione con il Mood Groove. Appuntamento alla prossima stagione. Per quanto riguarda il Breakfast, domani il Voltiamo Pagina, e un buon ascolto, una buona giornata e un caloroso abbraccio a tutte e a tutti da Paolo Onofri e da William Piana. a risentirci per chi vuole a tra poco, se no a colazione domattina alle ore 7. Ciao a tutte, ciao a tutti.